La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, buona Pasqua a tutti da Franco D'Assisi, dalla nostra redazione, da tutti quelli che lavorano e collaborano alla Rosa Purpurea. Perché? Perché siamo nel weekend di Pasqua, ma la nostra ora di cinema imperterrita non vi lascia neanche in questo fine settimana. Un'ora di cinema, un'ora per raccontare tutte le novità, o parte, quello che merita, diciamo, delle novità in sala sul grande schermo, ma anche per avere qualche consiglio su qualche bel film da vedere in questo weekend, anzi chiamiamolo trickend, visto che c'è di mezzo anche il lunedì di Pasqua, la Pasquetta pasquale, e per farsi un'idea, insomma, su dove andare a spendere questi fatidici 7-8 euro in un film che valga la pena. Ce ne sono alcuni, noi li abbiamo selezionati, a mio modo di vedere ce n'è uno su tutti che è Titanic, perché poi alla fine bisogna anche dare merito a questo straordinario capolavoro che torna in sala, ma ne parleremo. Sentiamo prima tutti i contenuti della trasmissione nei titoli di testa. 20 anni dopo, sempre più grande. Il Titanic torna sugli schermi italiani con la sua storia d'amore, con il dramma del naufragio e con la terza dimensione. Avventure in occhialini per vedere o rivedere un capolavoro immortale. Sono pirati da strapazzo, una ciurmaglia senza arte né parte. Sono i briganti del nuovo film dell'Aardman, La Factory di Wallace & Gromit. Incapaci negli arrembaggi, ma molto, molto simpatici. Sono i Pluto. Sono una rock band e sono i più grandi di tutti. Sullo sfondo di una Toscana industriale, la storia di un sogno musicale infranto e delle stagioni della vita che cambiano, con Claudia Pandolfi. 30 posti per Diaz. Nuova anteprima per 30 ascoltatori della Rosa Purpurea. Martedì 10 aprile all'Anteo di Milano si svela il film di Daniele Vicari sui fatti del G8 di Genova. Prenotatevi per l'anteprima scrivendo a larosapurpurea@radio24.it. Or dunque, allora, questi sono i titoli e i contenuti principali della trasmissione. Noi cominciamo con una commedia italiana. Allora, sono 8 i film che escono in sala, fra l'uscita di qualche giorno fa, il 4, perché anticipando, vista anche la chiusura delle scuole, le vacanze pasquali, qualche film è uscito prima, fra cui Biancaneve, di cui parleremo fra poco, ma anche I più grandi di tutti, che è appunto il film con il quale vogliamo iniziare la nostra trasmissione. I più grandi di tutti, dicevo, una sorta di commedia musicale, se vogliamo, tutta nostrana, tutta italiana, la storia di un gruppo rock, i Pluto, che però ci raccontano tante altre storie che non sono solo quelle della musica, ma sono quelle anche del territorio in cui vivono, la zona di Rosignano, quindi quella che è un misto di fabbriche, di mare molto vicino, ma anche di montagne. È una zona simbolica, e anche simbolica di una generazione, di un'Italia generazionale, è questo film. I più grandi di tutti, ce lo racconta Chiara Pizzimenti. Illustrissimo signor Loris Vanni, mi chiamo Ludovico Reviglio e mi permetto di importunarla dal momento che ho avuto il privilegio di incontrarla personalmente dopo uno strepitoso concerto dei mitici Pluto. È Loris, Alessandro Roia, a leggere questa email. Traslocatore semidisoccupato ora, 15 anni fa batterista dei Pluto, i migliori di tutti, secondo un fan diventato giornalista, Corrado Fortuna, che ha un sogno per questa band, una band che non ha neanche avuto un vero successo. Una bella intervista approfondita a tutti e quattro i membri dei Pluto per realizzare un film documentario di una sessantina di minuti. Bisogna dire la casa del gruppo. Vogliono fare un documentario su di noi, ma una sala parecchio importante. Comunque ci pagano, bravo. Loris va al primo incontro per dire no, poi un po' per pietà nei confronti del ragazzo che è in sedia a rotelle, un po' per i soldi che la madre gli offre, accetta e si mette alla ricerca del resto del gruppo. Ecco chi erano i Pluto, di cui sentite in sottofondo le musiche originali. Il frontman maledetto, Mao, Marco Cocci, è rimasto un Peter Pan un po' delinquente. Sabrina, Claudia Pandolfi, la bassista, che tenta di sistemarsi con fidanzato borghese e villetta. Rino, Dario Cappanera e il chitarrista, ora operaio. Sono evidentemente uno più sfigato dell'altro. L'idea del nome si deve alla divinità greca dell'opulenza e della ricchezza o al pianeta? No, era il nome del cane della mia nonna. Film di un musicista, questo I più grandi di tutti, seconda regia di Carlo Virzì, fratello e anima musicale dei film di Paolo. Ambientato nel litorale toscano più industriale, legacy Livorno e dintorni, racconta di sogni sfumati in realtà disastrose, con risate e tristezze, un po' School of Rock, un po' le pellicole di Cameron Crowe. Indovinati il cast, davvero una band, e l'ambientazione provinciale, discutibili diverse sterzate della sceneggiatura. Così il regista racconta il suo progetto. Si va a vedere come sono oggi quelli che forse negli anni 90 andavano in giro col furgone a fare concerti in giro per l'Italia a 2 lire davanti a 5 persone. E sono persone a cui manca forse qualche gratificazione dal lavoro, dalla famiglia. Questa vecchia passione della musica che qualcuno forse ha già archiviato, messo in cantina, in uno scatolone. Non sanno che può regalargli ancora qualche gioia, qualche gratificazione. Io l'ho trovato molto malinconico. Tutti quanti volevamo fare un film che fosse spiritoso, dove si potesse però far convivere sia l'ironia e la dissacrazione insieme alla tenerezza. Io adoro i film o anche i romanzi, insomma, dove questi due registri vengono miscelati, perché è un po' come la vita, no? Che un po' si ride, un po' si piagna. È un film nato appunto da conoscenza, da esperienza personale, e cresciuto poi come? L'idea di base era un appunto mio, sulla base di alcuni piccoli aneddoti che mi era capitato di registrare qua e là proprio in quel periodo in cui suonavo. Poi mi sono affiancato a due scrittori, diciamo, di professione, due sceneggiatori che stimo molto, e sono Andrea Agnello e Francesco Lagi. Era una cosa un po' a scappatempo, sai, quando scrivi quella fase lì non sai ancora se riuscirai mai a fare quel film, e quindi lo fai gratis. Io grandi sensi di colpa avevo, talmente tanti che me lo sono poi scritto da solo, la sceneggiatura. Grazie a Chiara Pizzimenti, che ci ha raccontato i più grandi di tutti con le interviste, con i protagonisti del film. Proposta italiana, quindi andiamo a vedere un po' come vanno le classifiche, perché ci aspettavamo di più dall'impatto sul mercato e nelle sale di Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, che è stato nostro ospite la settimana scorsa qui alla Rosa Purpura. Un bel film italiano di impegno civile, politico, di ricostruzione storica, come se ne facevano una volta, che però è partito un po' così, e qui c'è da prendere atto di una situazione, forse c'è da prendere atto, forse c'è da sperare che le cose non stiano proprio così, ma insomma il pubblico di oggi, del cinema di oggi, è un pubblico che va cercato veramente col lanternino per questo tipo di film italiani, perché purtroppo 20 anni di tabula rasa rispetto a un determinato tipo di cinema di impegno civile, di fiction all'acqua e sapone anche su queste grandi vicende storiche in televisione, hanno sicuramente fatto fuori più di una generazione di spettatori per questo tipo di film, e quindi ci vuole molta pazienza. Il film lo merita, lo merita molto. Poi non piangiamoci addosso perché gli italiani vedono solo le commedie e cinepanettoni. Quando ci sono i bei film di questo tipo, poi bisogna andarli a vedere. La responsabilità degli spettatori, lo sapete, per chi vi parla è assolutamente centrale e primaria. Comunque, la classifica dice: primo posto per La furia dei titani, e questo è tutto un programma; secondo posto per Buona giornata di Carlo Vanzina, la cinecolomba che è uscita, insomma, anche qui senza ormai neanche il ricordo degli incassi di una volta; terzo posto per Il trionfo di questa stagione fino a questo momento, Quasi amici, che supera i 10 milioni e mezzo di euro di incasso globale, pensate, ancora 730.000 nel weekend, quando invece Romanzo di una strage, che è quinto, dietro È nata una star, ne ha fatti 530.000 nel primo fine settimana. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, eccoci qua, seconda parte del nostro programma. Parliamo di Pollo alle prugne, non perché ci siamo trasformati in una rivista di una settimanale di cucina medio orientale, ma perché è questo il titolo del nuovo film di Marjan Satrapi. Stiamo parlando della creatrice di Persepolis, illustratrice, disegnatrice di grande livello, a livello appunto di graphic novel, che questa volta esordisce in un certo senso un'altra volta alla regia cinematografica in live action, anche se parzialmente mitigata dalla presenza comunque dei suoi sogni animati. Pollo alle prugne, con Mathieu Amalric, Edouard Baé, Maria de Medeiros, e questi sono gli attori più conosciuti di quelli che popolano questo film abbastanza onirico, ambientato nella Teheran del 1958, e che racconta la storia magica e struggente di un violinista, di un grande violinista, Nasser Ali, con una moglie che non ama, una moglie che tra l'altro gli distrugge, in un impeto di gelosia praticamente gli distrugge il violino. E distruggere lo strumento a uno strumentista, e un violino al violinista in particolare, è una sorta di reato contro la morale. Il nostro si mette a girare il mondo per cercare un violino all'altezza per continuare a suonare, ma nessun violino lo ispira come quello che la moglie gli ha spezzato, e il nostro decide di morire. Decide di morire, lo decide in maniera consapevole, cerca anche in maniera buffa e comica un modo per farlo e poi decide di lasciarsi morire senza mangiare, così. Davanti ai suoi figli, davanti al ricordo anche di un amore spezzato che è stato il vero momento di rottura della sua vita, ancora prima di quel violino. Questa è un po' la storia che vaga, come dicevo, fra un onirico felliniano e anche l'animazione fiabesca alla Satrapi, che tutto sommato non manca anche in questi momenti. Il clima anche visivo, cromatico quasi, del film è in parte anche quello di Junet Caro, di Amélie, per intenderci, c'è un po' quel mondo. È una storia molto molto bella, molto struggente, come dicevamo, ma forse con qualche limite in termini di tenuta, di sceneggiatura e di slabbratura qua e là del racconto. Ma comunque un film complessivamente da vedere. Sentiamo questa clip, poi ne parliamo con il nostro Boris Sollazzo, che è già appollaiato per noi. Vi racconterò la storia di Nasser Ali. Mi ricordo la prima volta che l'ho sentita suonare. Non avevo mai udito nulla di più bello in tutta la mia vita. Era il miglior violinista del suo tempo. Sei tu l'uomo, sei tu che dovresti provvedere alla tua famiglia. Sapevi che stavi sposando un artista. È troppo se ti chiedo di occuparti di tuo figlio. Tu ce l'hai una sigaretta. Malgrado le apparenze, Faranghis amava suo marito. In ogni caso è tutta colpa tua. È sempre colpa mia, guarda un po'. Certo che è colpa tua. E queste le note della colonna sonora di Pollo alle prugne. Boris Sollazzo, intanto buona Pasqua anche a te, ben ritrovato qui fra noi. Dicevamo, un film che forse in certi momenti, nonostante la suggestione, mostra qualche piccola falla nella sceneggiatura, un qualche lungaggine di troppo, qualche difficoltà anche poi nel seguire i flashback e i flash forward di questa storia. Cosa rappresenta per la Satrapi questo semi esordio alla regia live action? Beh, secondo me mostra tutti i difetti della Satrapi e tutti i pregi della Satrapi, nel senso che lei ha fatto della sua poetica stilizzata e allo stesso tempo fortemente metaforica la sua grande forza, perché questo è lo straordinario racconto di una famiglia che diventa il racconto di un paese. E per quanto riguarda il Pollo alle prugne, forse scende troppo nel particolare, nel biografico, raccontando uno zio che di fatto, insomma, aveva vissuto una storia molto simile a quella che viene raccontata nel film, e passa da momenti di grande lirismo, di grande bellezza estetica e anche sentimentale, perché poi a dispetto della sua capacità di essere anche molto sarcastica, molto ironica, ha un'arte, una scrittura molto sentimentale, ha momenti di forte noia perché non riesce a mantenere su quel livello tutto il piano del racconto, e il racconto non è facile, perché poi bisogna comunque far entrare lo spettatore nell'ordine di idee di un uomo che ha consacrato la musica talmente tanto da sacrificare tutta la sua famiglia, perché se è vero che non ama la moglie, che invece lo ama perdutamente, è anche vero che invece è pazzo di questi figli che poi decide di abbandonare. E il film ha un suo fascino, ha sicuramente un suo fascino, perché il racconto è interessante, ha dei momenti molto belli, a mio parere però in qualche modo alla fine del film lo senti come una grande incompiuta, come una grande occasione che poteva essere sfruttata molto meglio. Completamente d'accordo con Boris questa volta sull'analisi di Pollo alle prugne, che comunque rimane un film da vedere, perché sono dei momenti, come diceva Boris, di grande poema visivo, e quindi insomma merita di non essere accantonato questo nuovo film di Marjane Satrapi. A questo punto noi giochiamo prima traccia di questo Blu-ray game pasquale con un capolavoro recente. Sentiamo la prima clip. Prego, faccia la sua previsione su quanti fagioli ci sono nella bottiglia. Sì, 2 milioni e 6 fagioli. 2 milioni e 6 fagioli. Non si tratta di Raffaella Carrà, ricordate la questione dei fagioli del barattolo, ma di un grandissimo film, come dicevo. Se avete già indovinato di quale film si tratta e volete provare a vincere il Blu-ray di questo film per il più bravo e veloce del sabato e della domenica, La Rosa Purpurea, @radio24.it, con il vostro indirizzo, mi raccomando, per partecipare e vincere più tardi. Ci saranno altre due possibilità. Il Titanic era chiamato la nave dei sogni. E lo era davvero. Va bene, apri gli occhi. Ho tutto quello che occorre è proprio qui, con me. Secondo me la vita è un dono e non ho intenzione di sprecarla. Non sai mai quale carte ti capiteranno nella prossima mano. Impari ad accettare la vita come viene. Quando la nave attraccherà, io scenderò con te. L'omaggio al Titanic, il trailer, la voce straordinaria di Céline Dion, un grande capolavoro della storia del cinema, una vera e propria pietra miliare che torna in sala in 3D. Brividi solo a sentire questo trailer. Sarà l'anima romantica di chi vi parla, non lo so cos'è, però insomma, questo Titanic, il mastodonte Titanic, il film che ha incassato più di tutti nella storia del cinema, poi dopo possiamo correggere al netto delle questioni, 10 anni fa quanto valevano i soldi, 20 anni fa oggi, Avatar, eccetera, sempre Cameron, ma insomma una delle situazioni più popolarmente conosciute, un film che ha una tenuta di racconto 20 anni dopo che è straordinaria. L'ho rivisto in 3D insieme a giovani, meno giovani, insomma il film regge tuttora perfettamente nelle sue 3 ore e 15 minuti, questa storia d'amore fra Jack e Rose, è bello rivedere dei giovanissimi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, e la storia, quella con la S maiuscola, di questa nave che doveva dimostrare la potenza, che solcava i mari e che invece mostrò la fragilità anche dell'uomo e delle sue convinzioni. Boris Sollazzo, la domanda ovviamente in questi casi che mi stanno facendo tutti, non so se capita anche a te, ma il 3D cosa aggiunge a questo Titanic? A mio modo di vedere è già un bene che non tolga nulla. Non toglie nulla assolutamente, e non è poco, perché invece si rischiava, quello era un film in 2D che già sembrava in 3D, quindi effettivamente il gonfiare poi in 3D poteva correre il rischio di togliergli la poesia, di togliergli la profondità e l'abilità della regia di Cameron. Questo non succede. La cosa curiosa, devo dire, è che uno si aspetterebbe che il 3D va a insistere, a inserirsi nelle scene drammatiche del naufragio, soprattutto in un periodo come questo in cui soprattutto noi in Italia ci troviamo a dover fare i conti con un vero naufragio che ha riempito il nostro immaginario. E invece il 3D ha la sua più grande efficacia nelle grandi scene all'interno del transatlantico, quando ancora non è affondato, ovvero nelle scene con l'orchestra, nelle scene di ballo, nelle scene della cena. Lì c'è qualcosa in più, si amplifica la poesia del film, si amplifica la bellezza delle scenografie, tutto il lavoro che poi portò a quel budget monster, che non era riempito solo insomma dalle quantità di acqua utilizzate o dalla ricostruzione praticamente in scala 1-1 della nave. E devo dire che onestamente Titanic, che forse è stato il penultimo grande evento, l'ultimo è stato Avatar, sempre di Cameron, popolare, cinematografico, in cui c'è stata gente che l'ho andata a vedere 5-6 volte, mantiene la sua stessa forza. Non so se avrà lo stesso successo, ma per chi non l'ha visto non è assolutamente una perdita o qualcosa in meno, ma direi anche qualcosa in più, posso anche bestemmiare e dire qualcosa in più. Assolutamente, 276 sale tra l'altro, diffusione abbastanza capillare per Titanic in 3D, quindi chi non l'ha visto al cinema deve andarlo a vedere al cinema. E poi c'è tutta una serie di ragazzi che hanno oggi 20-25 anni, che non hanno visto Gioco Forza, che hanno questa grandissima occasione. Titanic in 3D con tutta la sua magnificenza, diceva Boris, le scene a cui aggiunge il 3D, a me viene in mente la mitica scena di Jack e Rose che fanno da polena vivente della nave a prua in mezzo al mare. Beh, lì la tridimensionalità, per esempio, aggiunge davvero molto. La rosa purpurea. Eccoci qua, ancora insieme la Rosa Purpurea, pronti a rimanere in mare, visto che parlavamo di Titanic poco fa, ma questa volta con l'animazione, con un nuovo prodotto di una premiata ditta, che è quella della Aardman, quella di Gallina in fuga, per intenderci, di Giù dal tubo, di Wallace and Gromit, come non ricordarli, che con la sua plastilina animata arriva oggi a raccontarci questa bellissima storia di pirati un po' così. È stato del resto negli ultimi anni un po' un leitmotiv, no, nell'animazione, quello del supereroe un po' così, pensate agli Incredibili, dell'uomo intelligente ma un po' sfigato. Ecco, stavolta si parla di pirati che vorrebbero ma non possono, sostanzialmente. Questo Pirati Briganti da Strapazzo in 3D, anche la plastilina animata diventa 3D. Ascoltiamo questa clip e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Issate la bandiera! Non sono la ciurma ideale. Non è il classico pappagallo. Vieni, mio piccolo dodo, sì, sei tu, sei tu. E non è il capitano più abile. No! Fatto male? Ma c'è una cosa. Premio pirata dell'anno. Tu, pirata dell'anno? Che può cambiare tutto. Su quel trofeo c'è già il mio nome. Ecco il piano, andiamo a Londra. Ma capitano, il regno della regina Vittoria. Io odio i pirati! E allora questo è un pezzo del trailer, della clip di Pirati Briganti da Strapazzo. Dicevamo, plastilina animata, stop motion, cioè passo uno, vuol dire che ogni fotogramma viene registrato con la telecamera a sé, e quindi non c'è, la fluidità arriva dopo in fase di montaggio. Lavoraccio incredibile, infatti questo film è stato concepito ben 5 anni fa, ma stavolta c'è un ausilio, un apporto della computer grafica che si fonde con questa tecnica, se vogliamo, più antica, e dà origine a un film che rappresenta davvero una bandierina, un flag nel percorso di questo tipo di animazione, anche se, Boris, come sempre nei film dell'Aardman, a fare la differenza sono i dialoghi. No, lo sono assolutamente, anche se devo dire qui la tecnica, i dialoghi, tutto si fonde in maniera molto felice. Non siamo a livelli di Giù per il tubo e Wallace and Gromit, per carità, però bisogna dire che su un immaginario davvero sfruttatissimo, forse quello più sfruttato oltre quello dei pirati e quello dei vampiri, non me ne viene in mente un altro, si va a inserire con una gioiosa incoscienza e una divertita incoscienza soprattutto, per cui c'è questo passo 1 in 3D, che è uno dei pochi casi in cui il 3D ha senso, e nessuno l'avrebbe potuto mai dire, perché insomma, al di là dell'incredibile mole di lavoro a cui ti sottoponi utilizzando le tue tecniche insieme, c'è da dire che così a freddo non avrei mai detto che potesse essere così efficace. E dall'altra c'è questa, insomma, Gaia capacità di Aardman di raccontare storie un po' pazze. Questi pirati mi ricordano molto poco quelli caraibici di Gor Verbinski, e molto di più, adesso farò una considerazione per amatori, quelli dell'avventura grafica di Monkey Island, pazzi, surreali, completamente folli, con dialoghi assurdi, ciurme che nascondono in loro segreti improbabili, addirittura Charles Darwin che è una sorta di eroe negativo, e mi piace dire una cosa, grandissima è l'interpretazione di Hugh Grant, che dà la voce nell'originale a Pirati di Briganti di Strapazzo, e allo stesso livello è quella di Christian De Sica. Nella versione italiana, visto che non parliamo spesso bene dei doppiatori, la voce di Christian De Sica è un qualcosa in più, e mi fa piacere dirlo perché mi sembra assolutamente giusto. Boris, una battuta per Biancaneve, l'avevano lasciata fuori dal novero dei film prescelti, e c'è un motivo, insomma, non è che ci abbia fatto impazzire, però vale la pena citarlo, perché nel film di Tarzan Singh c'è Julia Roberts che fa la strega, cioè la cattiva, insomma, di turno, la cattivona, con Lily Collins invece nei panni di Biancaneve. Insomma, un ruolo di questo tipo da parte di un'attrice come Julia Roberts va quantomeno raccontato. Beh, possiamo dire che Julia Roberts all'inizio della sua carriera con Pretty Woman sognava di essere una moderna Cenerentola, si è trovata a fare la strega di Biancaneve 20 anni dopo. Al di là della battuta, è lei la forza di questo film, e anche la debolezza, è tutto incentrato su di lei, anche sulla sua autoironia, e su questa stile molto Mumbai, molto Bollywood di Tarzan Singh, che però non ha il coraggio, secondo me, di prendere una strada decisa, cioè di fare il Danny Boyle della situazione oppure di essere più occidentale. Tra l'altro il film soffre della concorrenza con l'altro Biancheneve, quello molto più dark e molto più remunerato nel budget, che è con Kristen Stewart e Charlize Theron, e qui si vede che il budget è risicato, si trova il modo comunque di fare delle belle scenografie e dei bei costumi, anche se veramente di cartone, sono abbastanza evidente la povertà delle risorse. A mio parere sono debolissimi i due protagonisti, cioè il Principe Azzurro e Biancaneve, questa Lily Collins che ha delle sopracciglia molto più simili a quelle di Elio le Storie Tese o il Beppe Bergomi di Prima Maniera, che alla reale Biancaneve che insomma tutti abbiamo nell'immaginario. È un film che ha tantissimi passaggi a vuoto, troppi passaggi a vuoto, e che si riscatta in parte con quelle 3-4 uscite da grande mattatrice di Julia Roberts, che però francamente a mio parere non bastano. Ma i Sette Nani valgono la pena o no? I Sette Nani, diciamo che questi Sette Nani che invece di andare in miniera si danno al brigantaggio, sono divertenti, sono sicuramente divertenti. Poi è molto divertente anche vedere in questo caso, diciamo, la versione femminista di Biancaneve, cioè la regina è una sorta di cougar che vuole impalmare un toy boy bello e stupido. I nani non sono straordinari, quasi tutti i personaggi maschili sono personaggi abbastanza squallidi, diciamo che ecco, in questo senso è una Biancaneve molto femminista. Bene Boris, allora questo è lo sconsiglio, potremmo dire, della settimana con Biancaneve. Grazie per essere stato con noi e ancora buona Pasqua. Grazie a te, buona Pasqua, alla prossima settimana. E a questo punto noi andiamo avanti perché abbiamo esaurito i film di questa settimana di cui parlare. Giochiamo insieme con la seconda traccia del game, ma fra poco c'è un'anticipazione ormai imminente, però insomma questa settimana è arrivato online il primo trailer di To Run With Love, nuovo film di Woody Allen in uscita il 20 aprile, lo sentiremo, fra poco ne parleremo. Prima però giochiamo seconda traccia del game. A cena non avevo ancora nulla, ma mi sono sorpresa a giocare con una nuova idea per una piccola campagna. Il problema è come facciamo davvero ad agganciare un gruppo di minorenni al nostro prodotto scadente. La Rosa Purpurea, @radio24.it, quale grande capolavoro recente di un grande regista contemporaneo è questo film? Provare a vincerlo. La Rosa Purpurea, @radio24.it, vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta, inserite sempre il vostro indirizzo per agevolare le operazioni di spedizione. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Oh, allora facciamo un passo in avanti, un salto in avanti di due settimane, perché il 20 aprile arriva in Italia il nuovo film di Woody Allen, To Run With Love. Stavolta, insomma, se ci è piaciuto da impazzire Midnight in Paris, aspettiamo con altrettanta impazienza questo film ambientato a Roma, perché dopo aver girovagato per mezzo mondo con Barcellona, Londra, Parigi, Woody Allen continua il suo omaggio all'Europa, proprio per la prima volta gira un film interamente ambientato a Roma, con un cast come sempre d'eccezione che va da Woody Allen stesso, che torna tra l'altro davanti alla telecamera, questa è una bella novità, con Alec Baldwin, con Penelope Cruz, con Judy Davis, eccetera eccetera eccetera, ma anche con i nostri Roberto Benigni su tutti, e passaggi più o meno importanti in termini di minuti di Antonio Albanese, di Ornella Muti, di Riccardo Scamarcio, eccetera eccetera. Insomma, ancora una volta commedia d'amore. Noi qua non vogliamo recensirla, perché lo faremo già il 20 aprile quando avremo visto il film e potremo raccontarvene meglio. Però vogliamo farvi ascoltare le prime suggestioni, perché questa settimana è stato messo online il trailer in lingua originale, è piuttosto lungo, 1 minuto e 51 di suggestioni in inglese, in americano, ma insomma valeva la pena farvelo sentire. Eccolo qua. I'm from Roma. My job is to stand up here and I see all people in Roma. All is a story. They gave us such a great room. You know, you married a very bright guy. I got 150, 160 IQ. You're figuring it in euros. In dollars, it's much less. Congratulazioni, è già tutto pagato. Sono tutta tua, tutta per te. Ma guardi che ci deve essere un errore. Io sono qui per soddisfare i tuoi sogni. I lived in Rome for a year when I was your age. Ah. This might have been my exact street. Come on in. My girlfriend makes great espresso. My friend just broke up with her boyfriend. I told her she could stay with us. She's smart and funny. Men just adore her. I think it's because of the sexual vibe that she gives off. I always had a little yen for sleeping with a woman. And when I finally didn't, it was incredible. She's something, isn't she? Ciao, faccio tardi. Ciao, ciao, Gabriele. Ma che vi prende? Ma che siete voi? Sei famoso! Cosa ha mangiato a colazione? Ma, Michelangelo? Hi. This is my father. Nice to meet you. Without the unions, the worker would be ground into dust. The kids are communists, the father's a mortician, the mother run a leper colony. Un evento televisivo che noi siamo in grado di documentarvi in diretta dal primo all'ultimo gesto. Lavorare tutto il tempo sdraiati sulla schiena, non lo posso immaginare. Io sì. I don't want to do it here. If you're going to screw your best friend's boyfriend, does it really matter what the venue is? You will never understand women. That's been proven. Isn't it nice to be someplace of pleasure? No. E allora questa è la suggestione di tanta fisarmonica, addirittura la Traviata avete sentito suonata con la fisarmonica. To Rome with Love dal 20 aprile nei cinema italiani, regia di Woody Allen. Adesso c'è da invitarvi a un'anteprima, ancora le anteprime della Rosa Purpurea, perché abbiamo la possibilità di mandare 30 di voi all'anteprima di Diaz, il nuovo film di Daniele Vicari che arriva nelle sale italiane dal 13 aprile e che sarà oggetto proprio di un'anteprima il 10 aprile alle 21, martedì 10 aprile alle 21 al Cinema Anteo di Milano. Come abbiamo già fatto in passato per altri grandi film, ecco la possibilità per gli ascoltatori della Rosa Purpurea di mandarci una mail alla rosapurpurea@radio24.it con il vostro indirizzo e specificando sin d'ora se sarete in uno o in due, perché si può essere soli o accompagnati. I primi 30 posti, è a esaurimento posti amici miei e quindi di più non possiamo fare, i primi 30 posti che saranno ceduti in questo senso verranno poi contattati dalla nostra segreteria per la conferma. Vi dico quindi sin d'ora che la vostra mail non fa fede in sé, bisogna poi aspettare ovviamente la conferma della nostra segreteria che vi dirà se siete fra i 30 che potranno venire il 10 aprile, martedì 10 aprile alle ore 21 al Cinema Anteo di Milano a vedere Diaz, il nuovo film di Daniele Vicari, tutto incentrato sui fatti del G8 di Genova, della caserma Diaz, della scuola Diaz, della caserma di Bolzaneto, insomma fatti che tutti conoscete, ed è un'altra nuova produzione di impegno storico, di ricostruzione storica del cinema italiano. Diaz quindi 10 aprile, la Rosa Purpurea @radio24.it, prenotatevi, 30 posti a vostra disposizione. La Rosa Purpurea. Ancora insieme la Rosa Purpurea, la quarta parte del nostro programma. Siamo arrivati in fondo, siamo arrivati ai film da vedere a casa e questa settimana la televisione ci offre parecchi spunti, a cominciare da domenica di Pasqua, domenica 8 aprile alle 18, quindi quasi appena finita la nostra replica domenicale, con un film come Moon di Duncan Jones. Noi ne vogliamo parlare subito con gli amici di Film TV, del settimanale Film TV. È con noi Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco. Allora, un film, questo Moon di Duncan Jones, forse un po' sottovalutato dalla sala alla sua uscita italiana, che però ha davvero trovato il modo di ritirare fuori la fantascienza vecchia maniera con pochissimi mezzi a disposizione. Sì, assolutamente. Moon su cielo, domenica alle 18, la storia del contratto triennale di un astronauta costretto da solo sul lato oscuro della Luna, che questo contratto sta finalmente per scadere. Le cose però, lui compreso, non sono quello che sembrano. È l'esordio del lungometraggio di Duncan Jones, autore appunto sottovalutato, che qualcuno si ostina a chiamare semplicemente il figlio di David Bowie, che è assolutamente un gioiellino fantascientifico di quella fantascienza antica, come appunto tu dicevi, che sa essere luogo esistenziale filosofico e che sa narrare drammi umani e porre addirittura questioni politiche. Sam Rockwell, il protagonista, è assolutamente strepitoso nella sua performance in solitaria sulla Luna. E allora su cielo, domenica 8 aprile, ore 18, Moon di Duncan Jones. Abbiamo detto un film fatto con non tantissimi mezzi, uno che invece di mezzi ne metteva tantissimi nel suo cinema, a volte anche un po' sperperandoli, era Michael Cimino. Però qui stiamo parlando di un suo film, anche questo abbastanza indie, parliamo di Ore disperate 1990, che va in onda lunedì 9 aprile. Sì, va in onda su Rai Movie lunedì alle 22.45, la storia di tre fuggiaschi che rompono in una casa in vendita e tengono in ostaggio un'intera famiglia per 40 tesissime ore. Simino, costretto a girare opere su commissione, dopo i suoi flop al botteghino, gira il rifacimento di un bellissimo film di William Wyler, senza che De Laurentiis, il produttore, gli lasci mettere mano alla sceneggiatura in maniera consistente. Ne esce un'opera fascinosissima e risolta, dove l'impeccabile famiglia americana del film del 55 è sostituita da un nucleo familiare disastroso, e il respiro epico di Simino fa uscire il film dalla claustrofobia di interni in cui era racchiuso il film precedente. E allora questo è Ore disperate di Michael Cimino, lo ricordiamo ancora, lunedì 9 aprile, Pasquetta, Rai Movie, 22.45, alla fine della grigliata, insomma, ci sta un bel paio d'ore con Michael Cimino e Ore disperate. Grazie Giulio e auguri a tutti voi della redazione di Film TV. Ciao Franco e buona Pasqua a te e ai radioascoltatori. E allora, esaurita la parentesi film in televisione, gioco, terza traccia del Blu-ray Game di oggi. Quello schifo di pianeta, quel meraviglioso pianeta vorrei dire. Prima era nero, adesso è blu, copre Antares e si nasconde dietro al sole. Tesoro, sarà l'esperienza più straordinaria che ci capiterà mai nella vita. Tra 5 giorni arriverà vicinissimo a noi e non ci colpirà. Capolavoro assoluto, La Rosa Purpurea, @radio24.it, di che film si tratta, nome, cognome, indirizzo. Settimana prossima proclameremo i vincitori di questo film, come facciamo adesso col game della scorsa settimana. Ugo, Antoine, Cécile, ciao. Salve. Ciao, ciao. Buon compleanno. Balli. Sì. Beh, l'abbiamo fatto apposta perché come film non vale molto, diciamo così, però insomma, come dire, ha segnato un'epoca in maniera straordinaria questa mini saga, Il Tempo delle Mele, e poi anche il suo sequel, che adesso sono insieme in un cofanetto che è stato pubblicato da DNC. Fra poco ne parliamo con Claudio Poffi, ma prima annunciamo che a vincere e a ricevere questo ambito cofanetto, devo dire, ha avuto una partecipazione a questo game straordinario, il che dice che gli ascoltatori della Rosa, certo, sono cinefili, ma ogni tanto si lasciano andare anche un po', ovviamente, alle loro emozioni di ragazzi, probabilmente. Margherita Canuti di Caselle Landi, provincia di Lodi, e Marco Bedeschi di San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, saranno loro a ricevere i cofanetti di Il Tempo delle Mele e del suo sequel, che Claudio Poffi ci racconta così. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora sì, singolarmente o in cofanetto i due film di Claude Pinotteur del 1980-82 sono ora disponibili in alta definizione. Sicuramente un passo avanti rispetto al DVD, con immagini più stabili, colori più intensi e precisi. Manca l'appello ancora un po' di contrasto a livello di dettaglio. Doppia traccia italiano-francese monofoniche sono quelle originali dell'epoca e presentate per la prima volta ad alta risoluzione, sono comunque di buona resa. Come extra, mettendo insieme le due opere, superiamo qualcosa come 160 minuti con vari documentari sull'epoca, i ricordi degli attori e realizzatori, oltre al commento al film del regista. E questo quindi Il Tempo delle Mele, il game della scorsa settimana. Noi a questo punto passiamo alle recensioni. Un film che ha vinto il Festival di Berlino 2011, è stato per molti veramente il film dell'anno, un grande modo di parlare dell'Iran, delle sue tensioni attraverso una storia privata, è Una separazione. Dite che io ho preso i soldi, ecco la borsa. Guardate dentro, vattene. La borsa, se ho preso dei soldi, ora ci devono essere dei soldi, no? No, guardate, mamma. Da solo. Jenny, papà, piccolina, prendi questa. Dove portate la mia borsa? Vi faccio vedere. Io sto giurando su Dio e Corano che non sono mai andata in quella stanza. Vattene questa fuori. È la mia borsa. Ma che fai? Che stai facendo? Mi ripeto, Dio mi è testimone. Se io da qui ho messo solo vattene un piede fuori. Oltre quella porta, Dio mi è testimone. Ma fuori, ho detto. Non ho preso i soldi. Voi state dicendo andare. Che io... Ma perché? Che ho cosa ho fatto? Fuori. Non mi toccate! In Iran, dopo la separazione della moglie, Nader ha assunto Razie, badante che lo aiuta ad accudire il padre malato di Alzheimer. Fervente religiosa, un giorno si allontana incautamente dall'appartamento, abbandonando l'anziano, che Nader troverà legato per un po' sulla sponda del letto, convinto tra l'altro che Razie abbia rubato del denaro in casa. La sera stessa Nader scoprirà, assieme alla ex moglie, che la donna era incinta e si trova in ospedale a causa di un aborto spontaneo, e si ritroverà invischiato in una trama di bugie e manipolazioni. grande cinema d'autore per il regista Asghar Farhadi, che ha realizzato un film drammatico con crescente tensione e ritmo. L'edizione di CG Home Video è di ottima qualità, è disponibile solo in DVD per ora con doppia traccia Dolby Digital Multicanale italiano e farsi. Come extra segnaliamo una conversazione con il regista Farhadi in compagnia di uno degli attori del film. 1951, un grande regista come John Huston regala al cinema una perla come La regina d'Africa, un film che poi molti anni dopo, nel 90, avrà un remake, anche quello molto d'autore, con la mano di Clint Eastwood. Sentiamo. Che si fa ora? Giusto. Abbiamo un sacco di provviste qui, siamo in una botte di ferro da questo punto di vista. 2000 sigarette, 2 casse di gin. Potremmo stare qui dei mesi se lo volessimo. E non è neanche un posto troppo brutto per scapolare una guerra. Tutte le comodità casalinghe, anche l'acqua corrente. Ma non possiamo restarcene qui imboscati fino alla fine della guerra, signor Holmes. Non possiamo, miss. Avete lì una carta. Mostratemi una via d'uscita e io la prendo. Gli inglesi certamente lanceranno un attacco. Il problema è sapere da che parte verranno. Nel 1914, lo scoppio della guerra tra Germania e Inghilterra, Rose, missionaria bigotta impegnata nell'Africa orientale presso una missione, scappa al passaggio dei soldati tedeschi e decide di seguire il burbero e rozzo Charlie sulla sua imbarcazione. Lui vorrebbe eclissarsi in un luogo sicuro in attesa della fine delle ostilità, lei invece vuole usare il piccolo natante per affondare una cannoniera che presso un grande lago blocca l'esercito britannico. Grande classico del 51, girato in Africa tra incredibili vicissitudini, diretto da John Huston con due memorabili interpreti come Humphrey Bogart e Catherine Hepburn. Nuova edizione restaurata da Flamingo Video, per ora disponibile solo su DVD, di buona qualità video e audio, c'è una doppia traccia monofonica italiano-inglese. Sono interessanti gli extra, tra cui segnaliamo l'immagine della lavorazione, l'opera di restauro, ma soprattutto un approfondimento sul film a cura del critico Vieri Dazzini. Grande, grande capolavoro, è appunto in edizione restaurata, quindi è un'edizione davvero da non perdere. Grazie Claudio Pofi, buona Pasqua anche a te e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao, buona Pasqua, a presto! Siamo arrivati in chiusura, la nostra corsa di un'ora è praticamente finita, ci manca però il tempo ancora di ricordarvi l'invito per 30 ascoltatori della Rosa Purpurea all'anteprima di Diaz di Daniele Vicari, martedì 10 aprile alle 21 al Cinema Anteo di Milano. Basta solo scrivere alla Rosa Purpurea @radio24.it con vostro nome, cognome, indirizzo e magari telefono per agevolare un po' i contatti e dirci se volete venire da soli o in due. I primi 30 posti esauriti, chiaramente noi poi dopo non potremo fare più nulla, però i primi 30 avranno la possibilità partecipare a questa bellissima anteprima 10 aprile alle 21 di Diaz, tra l'altro con cast, regista e produttore del film presenti in sala. Ovviamente sarete ricontattati per conferma dalla nostra segreteria. È davvero tutto, grazie per averci seguito, un ringraziamento particolare, ancora un augurio a Giorgio De Luca in redazione, a Carmelo Lauricella in regia. Buona Pasqua a tutti e un saluto da Franco D'Assisi.